Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Le regole del marchese sono: cammina a occhi bassi, riga dritto e stati in casa. Fino a quando non mi viene, però, posso fare i lavori nell'orto, andare al mercato a vendere le erbe, le rane o le lumache con mio padre, tirare le pietre con la fionda ai maschi ogni volta che prendo in giro il mio amico Saro, che è storto di una gamba, correre per lo stradone assieme a Cosimino e ritirarmi tutta sudata e con le ginocchia nere. Alle altre mie amiche il marchese è venuto. Da quel momento si sono allungate le gonne, sono usciti i brufoli in faccia ed è spuntato il seno sotto le camicette. A crocifissa sono cresciuti anche un poco di baffetti e i maschi hanno iniziato a chiamarla il brigante Musolino. Lei però non se ne cura, va in giro con l'aria sofferente e le mani premute sulla pancia come se fosse gravida. E a tutte le compagne che incontra ripete la stessa domanda: a me è arrivato il sangue e a te? Come se avesse vinto un premio. Dei maschi il marchese non ci va proprio. Loro non sono come noi, diventano grandi un poco alla volta, non tutto insieme. Ciao a tutte e tutti da Frey e Debs. Ben ritrovate e ben ritrovate alla nuova puntata di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia della domenica mattina. Quella che vi abbiamo iniziato a leggere è una parte della storia di Oliva Denaro, la protagonista del famoso romanzo omonimo di Violardone. Un romanzo questo scorrevole, verrebbe da dire quasi facile per certi aspetti, ma non è un uso della parola facile e negativo. Sicuramente è un romanzo dove non c'è una retorica o escludente o neanche la ricerca di una prosa chissà che artificiosa. Però questa facilità, questa scorrevolezza che abbiamo trovato nella lettura è qualcosa che ci aiuta ad entrare in una storia che invece non è affatto semplice. Le storie e la storia che vengono raccontate all'interno di questo romanzo, seguendo l'adolescenza di Olivia Denaro, della sua famiglia, delle sue compagne di classe, dei maschi del paese, è una storia veramente complessa. Nella storia di questa ragazzina infatti c'è la microstoria di tantissime donne italiane del sud che hanno sofferto le imposizioni di genere, ma c'è anche la storia di chi ha avuto coraggio e di fortuna per potersi autodeterminare. E infine, naturalmente, c'è la grande storia, quella con la S maiuscola, perché Olivia Denaro richiama la vicenda di Franca Viola. Franca Viola è la ragazzina che ha messo in discussione il matrimonio riparatore, è quella che ha detto no all'unione con l'uomo che l'aveva rapita e violentata. Franca Viola era la figlia di due contadini che viveva in Sicilia negli anni 60, italiani, e che ha trovato, anche in un contesto che apparentemente qualcuno potrebbe dire poco favorevole, il coraggio di mettere un ingranaggio nella storia e rompere il meccanismo di autoriproduzione del patriarcato. Il 26 dicembre del 1965, all'età di 17 anni, Franca veniva rapita da Filippo Melodia. È violentata, malmenata, lasciata a digiuno per 8 giorni. Per salvare onore e nome della famiglia sarebbe stato sufficiente che la vittima avesse sposato il suo abusante e così tutto si sarebbe risolto nella sacralità dell'unione coniugale. Perché si sa, se sei stata violentata un po' è perché te la sei cercata anche tu, quindi le chiacchiere sono su di lei, mica su di lui. La signorina dovrà provare che non è più fisicamente integra come lo era prima e anche di non essere stata consenziente alla fuitina, come spesso consuetudine da noi. È stata mai vista parlare con il paternò? Ci ha ballato magari in piazza? Di fronte a tutti? Ha accettato doni? Serenate? Quando fu presa camminava solo in compagnia? Era al mattino o all'imbrunire? Chiudo gli occhi, la rabbia mi schiaccia lo stomaco. Il processo lo devono fare a me, non a lui, così capisco. Viola, grazie anche all'appoggio determinante della famiglia, dice no al matrimonio riparatore, sfida la sua comunità e il suo aguzzino. Franca ha innescato un processo che dopo anni, dibattiti e battaglie ha portato all'abolizione dell'articolo 544 che di fatto assolveva gli stupratori qualora avessero sposato le loro vittime. Nel 1981, oltre al matrimonio riparatore, viene abolito anche il delitto d'onore. La mentalità patriarcale per cui le donne passano facilmente da essere vittime a colpevoli non è stata veramente scardinata in Italia. Basta vedere come vengono trattate le violenze sessuali in tribunale o i femminicidi sui media. Tutte cose molto complesse che Violardone è riuscita a cucire in un romanzo capace di parlare a più di una comunità di lettori e lettrici. Leggendo la storia di Olivia Denaro ci siamo fatte un po' di domande sul rapporto tra il femminismo, la storia e la letteratura. Proprio per questo abbiamo voluto approfondirle e abbiamo telefonato a Violardone e ci siamo fatte dire la sua su alcune delle questioni. Ciao Viola, benvenuta e bentrovata sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Grazie di aver accettato l'invito per parlare appunto di Olivia Denaro e parlare poi appunto di tanti temi che nascono dalla lettura di questo bellissimo romanzo che ha avuto un super successo. E devo dire che leggendo il romanzo e vedendo il successo che ha avuto, una delle domande che mi sono fatta e che ci siamo fatte è: perché un romanzo che parla di un tema ancora difficile come la violenza sulle donne, che in Italia è ancora una questione spinosa, ha avuto tutto questo successo? E quindi questo lo dico in maniera anche un po' provocatoria, dov'è la questione, insomma, se da una parte nella letteratura va così bene, nella realtà un po' meno. Quindi ti chiedo in generale qual è la potenzialità del rapporto tra femminismo e una letteratura che arriva, che si legge, che si può leggere da più comunità di lettori e di lettrici, e quali sono invece le possibilità di banalizzazioni. Certo. No, allora sì, la questione è in particolare perché quando ho iniziato a scrivere ho pensato a un tema spinoso, chissà che succederà, c'è possibilità di scivolare o nel già detto, nel cliché, oppure nelle visioni manichee uomo-donna. Io non volevo questo naturalmente, ma io quando scrivo per pormi delle domande e non sempre trovo risposte, però secondo me il compito della letteratura è questo, di porre delle domande a se stesso, a chi legge, lasciare anche con tanti dubbi. Un romanzo che ti alla fine ti lascia la soluzione in fondo alla pagina non è un romanzo, non è il tipo di letteratura che io amo frequentare, sia come scrittrice che come lettrice. Quindi la mia domanda era precisamente questa: che cosa succede? Sulla carta la parità è raggiunta, sono tante leggi a tutela anche della donna, leggi che puniscono la violenza sessuale, lo stalking in tutte le sue forme. Però il fenomeno resta, il femminicidio purtroppo è un'emergenza quasi quotidiana, il mondo del lavoro è ancora un territorio difficile da praticare per molte donne. E ho detto va bene, proviamo a riavvolgere un attimo il nastro e ho iniziato a scrivere questa storia che parte dall'inizio degli anni 60, perché mi sembrava un periodo in cui c'era ancora una visione molto tradizionale dei rapporti tra uomo e donna, dei rapporti all'interno della famiglia, quindi tutto il processo ancora non era partito, non c'era il femminismo, non c'era stato il 68, quindi non c'era una visione ancora politica della donna, però proprio all'inizio di quegli anni 60, in quel momento di boom economico, di grande energia e fermento, alcune donne incominciano a porsi la domanda: ma è tutto normale? Deve essere così? È tutto giusto? Quindi volevo iniziare il mio racconto da lì per arrivare poi più avanti e cercare di capire il portato di quegli interrogativi che sono nati in quell'epoca e che hanno trovato man mano delle risposte. Risposta che dobbiamo continuare a cercare per arrivare al presente, perché ecco, è una strada ancora da fare, ancora da costruire, nonostante tutte le conquiste. Senti, ma come scrittrice, qual è secondo te il confine tra l'esercizio letterario, la volontà di scrivere, l'aspetto creativo e l'intento didattico un po' sociale? Perché in questo libro c'è questo confine a volte. Sì. Insomma, non è così netto. Sì, ma secondo me un libro può essere letterario e può essere anche politico. Politico non nel senso che si faccia portatore di un'idea, di un principio, politico perché si interroga di cose della vita, difficoltà delle persone, problematiche che in qualche modo sono attuali, entra nelle storie degli altri e non solamente nella propria, oppure fa della propria storia una storia di tutti, insomma anche un libro autobiografico può essere molto politico. Poi diciamo che c'è stata una stagione letteraria in cui in Italia molti libri erano così, andavano a cercare connettere i fili positivo e negativo per fare un po' dei circuiti tra la letteratura, la vita, la politica e poi questo è un po' saltato, c'è stata una fase anche di ripiegamento, di intimismo sulle dinamiche familiari o personali. A me però quel tipo di letteratura piace, insomma mi piace poter raccontare sia una storia intima, però anche una storia politica, la storia, un pezzettino della storia anche di quello che abbiamo vissuto nel nostro paese poco tempo fa. Insomma, se il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, perché poi Oliva Denaro parla anche di questo, escono dal codice penale nel 1981 e non stiamo parlando di tantissimo tempo fa, è un'epoca che ci appartiene, quindi è ancora tutto molto vicino. Quindi, ecco, ripeto, il romanzo come specificità deve avere quello di non indicare delle soluzioni, ecco, di non essere didascalico, ma di interrogarsi in maniera problematica attraverso delle voci narranti su qualcosa che può essere di interesse più generale. Un tempo si diceva il personale, il politico, è il politico, è uno slogan che aveva una sua bellezza. E senti, dopo che hai scritto questo libro, il libro sei stata anche un po' identificata forse con queste tematiche in quanto scrittrice. Come te la cavi con questo ruolo nel dibattito pubblico? Cioè, appunto, non sei solo una scrittrice, ma sei anche adesso una persona a cui si chiedono opinioni sui temi legati alle questioni di genere. Hai dei modelli di riferimento come appunto scrittrice all'interno del dibattito pubblico? Allora, questa è una cosa anche un po' su cui mi sono interrogata, perché dopo aver scritto Il seno dei bambini, che era un libro che parlava dell'infanzia nel dopoguerra, venivo spesso interpellata per questioni relative all'infanzia, alla povertà, eccetera, eccetera. Con Oliva Denaro invece vengo spesso interpellata su questioni di genere. E no, la mia risposta è che io cerco di, insomma, intervenire quando è possibile, quando sento di aver qualcosa da aggiungere, insomma come creatrice di storie, proprio perché ecco non sono in grado di indicare strade o dare risposte, insomma, dal punto di vista del sociale. La mia visione, il mio modo di leggere una determinata storia, una dinamica, quindi cerco di ritagliarmi un ruolo che sia quello, insomma, dal punto di vista della scrittura, del letterario, e più di tanto non riesco a fare e non voglio nemmeno, cioè non, per quanto riguarda me, poi ognuno è liberissimo di fare come pensa, però quando ecco mi si chiede un parere, io cerco di affacciarmi sempre da questa prospettiva. Ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo, hai delle madrine letterarie a cui ti sei affidata nella scrittura di Oliva Denaro? Guarda, questo si collega un po' alla domanda di prima a cui non ho risposto completamente, perché in effetti se ci pensiamo c'è stata un'epoca storica in cui gli scrittori e le scrittrici partecipavano al dibattito politico, sociale, civile, e allora per esempio Natalia Ginzburg era allo stesso tempo una donna di editoria, perché era una delle colonne portanti delle Einaudi. Era una donna che si esprimeva attraverso periodici, stampa, ed era una scrittrice, quindi era una scrittrice di teatro anche, oltre che di narrativa, di romanzi. Quindi secondo me è una figura che mette insieme tutti questi aspetti, i suoi interventi anche su questioni legate all'attualità chiaramente dell'epoca non sono mai banali, ecco, non si appiattiscono mai, e secondo me poi il ruolo dell'intellettuale che si pronuncia è un po' questo, cioè cercare di dare un punto di vista che possa essere un po' laterale, un po' più letterario, senza necessariamente essere sempre migliore, però almeno ragionare per differenza. Ma questa è la grande lezione di Pasolini anche, ecco, i suoi interventi erano sempre degli interventi criticatissimi a volte proprio per questo, perché erano in qualche modo eretici rispetto al comune sentire e poi sono insomma rivelati quasi profetici in alcuni casi. Quindi sicuramente Natalia Ginzburg è tra le scrittrici che vado a rileggere per la sua complessità, che poi a volte si ammanta di una quasi facilità che invece è un frutto di un triplo salto mortale attorno ad ogni frase, ad ogni parola e attorno ad ogni storia. Femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia. E questa è la frase con cui cresce la piccola Oliva, in Sicilia, negli anni 60. A Oliva piace studiare e giocare, e quando affronta il sessismo e le imposizioni di genere deve affrontare anche quella cosa complicatissima che è l'adolescenza. Oliva viene corteggiata dal figlio del pasticcere, Paternò, e i genitori di Oliva decidono di combinare il matrimonio con un altro uomo. Ma Paternò non ci sta e decide quindi di rapirla e violentarla. Grazie all'aiuto dei genitori, che si trovano ad affrontare la storia con la S maiuscola, tra fragilità e affetti, Oliva denuncia il suo abusante e non lo sposerà. Oliva incontrerà altre donne che l'aiuteranno nella sua scelta coraggiosa, solo le donne che si impegneranno per il cambio della legge che avverrà solo nel 1981. Con questa data fondamentale del nostro calendario civile, il calendario civile di Vallun, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima domenica, sempre alle 11, e il lunedì sul nostro sito per il podcast www.radiovallun.info. Seduto sullo sgabello di fianco alla cassa, finalmente lo vedo per com'è. Mi pare stanco, invecchiato male, deluso come tutti dall'età. Anche lui ha perso, anche lui è una vittima. Dell'ignoranza, di una mentalità antiquata, di una mascolinità da dimostrare a tutti a ogni costo, di leggi superate dal tempo e dalla storia, eppure ancora in vigore, almeno fino a ieri. Aveva ragione Maddalena. Pa, nessuna donna è fragile. Fragile è solo chi è esposto all'ingiustizia. When you're called...